Don't. This is on. I have a dream.

Poco, molto. Thank you.

Di nuovo cambiano le cose, di nuovo cambia luna e quartiere, come cambia l'orizzonte, il tempo, il modo di vedere, cambia posto e chiedo scusa, ma qui non c'è nessuno come me. E stasera do lavare il mio vestito per l'amore, cambio donna e cambio umore stasera. E stasera voglio uscire, che mi facciano parlare, voglio ridere, voglio bere, stasera cambio umore. Ma sapere dove andare, come sapere cosa dire, come sapere dove mettere le mani. Quando t'ho perduta, mi fioriscono le rose, ma

altre storie. Intendo dire è tutto quello che desidero raccontare musicalmente. Tutto quell'armi desidero quello, tutto quell'armi desidero quello, tutto quell'armi desidero quello, tutto quello musicalmente. Tutto quell'armi desidero quello, tutto quell'armi desidero quello, tutto quell'armi desidero quello, tutto quello musicalmente. Quando dico altre storie, intendo dire dico altre storie. Intendo dire che non riesco, dire che non riesco, dire quello che voglio dire, dire quello che voglio dire. Che desidero raccontare musicalmente. Tutto quell'armi desidero quello, tutto quell'armi desidero quello, tutto quell'armi desidero quello, tutto quello musicalmente. Tutto quell'armi desidero quello, tutto quell'armi desidero quello, tutto quell'armi desidero quello, tutto quello musicalmente. Quando dico altre storie, intendo dire intendo dire intendo dire

di distorsione.

Pau,

fosse strano, aria. Non è come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani. È come se tutto fosse strano, aria. Non è come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani. Capito come? Violento. E vi... Fermamosi un momento. Parte maestro Corteatro Erburattino, Gigi D'Agostino. È come se tutto fosse strano, aria. È come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani. È come se tutto fosse strano, aria. Non è come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani. Per Gigi D'Agostino, aria. Per Gigi D'Agostino, sulle mani. Area per Gigi D'Agostino, sulle mano. Area per Gigi D'Agostino. Sì, area per Gigi D'Agostino. Area. Sì. We'll be right back. most of all, my shaking ass. Thank you. feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight, lady? Give me tonight, 'cause my feeling is just so right as we dance by the moonlight. Can't you see you're my delight, lady? I just feel like I won't get you out of my mind. I feel love for the first time, and I know that it's you. I can tell by the look in your eyes. La batteria è completamente ricaricata, ricaricata, ricaricata. La batteria è completamente ricaricata, ricaricata, ricaricata. La batteria è completamente ricaricata, ricaricata, ricaricata. Completamente, la mente ricaricata, è completamente. La batteria è la mente ricaricata. La batteria è la mente ricaricata, è completamente. La batteria è la mente ricaricata. La batteria è la mente. La batteria è completamente ricaricata. È completamente la mente ricaricata, ricaricata. Completamente la mente ricaricata. È completamente. La batteria è la mente ricaricata. La batteria è la mente ricaricata. È completamente. La batteria è la mente ricaricata. La batteria è la mente. Why? think why been up, up, think why been, think why been up, why to been, think why. I'm gonna make it. I cominciare da zero.

Signore e signori, Gigi D'Agostino vi ringrazia per aver scelto la sua compagnia e spera che abbiate fatto buon viaggio. E spera che abbiate fatto buon viaggio. E spera che abbiate fatto buon viaggio. E spera che abbiate fatto buon viaggio. Grazie, grazie a tutti, ciao, buon proseguimento, ciao a tutti, grazie.